Canto secondo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto secondo. Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva l'animai che sono in terra dalle fatiche loro, ed io sol uno m'apparecchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente, che scrivesti ciò ch'io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai. Poeta, che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente, prima ch'all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio lo parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però, se l'avversario d'ogni malo cortese fu, pensando l'alto effetto ch'uscir dovea di lui, e il chi e il quale non pare indegno ad uomo d'intelletto, che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'empireo ciel per padre eletto, la quale e il quale, a voler dirlo vero, fur stabiliti per lo loco santo, u siede il successor del maggior Piero. Per questa andata, onde li dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi lo vas d'elezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò né io né altri crede. Perché se del venire io m'abbandono, temo che la venuta non sia folle. Sei savio e intendi me ch'io non ragiono. E qual è quei che disvuol ciò che volle e per novi pensier cangia proposta, sì che del cominciar tutto si tolle? Tal mi fec'io in quell'oscura costa, perché pensando consumai la impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Se io ho ben la tua parola intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltate offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra. Sì che d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema, acciò che tu ti solve, dirotti perch'io enni, e quel che intesi nel primo punto che di te mi dolve. Io era intra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandar io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella e cominciòmi a dir soave piana con angelica voce in sua favella: o anima cortese mantovana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio e non della ventura nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin che volto è per paura, e temo che non sia già sì smarrito ch'io mi sia tardi al soccorso levata per quel che ho di lui nel cielo udito. Or muovi, e con la tua parola ornata, e con ciò che ha mestieri al suo campare, l'aiuta sì ch'io ne sia consolata. Io son Beatrice che ti faccio andare, vegno di loco ove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora, e poi cominciai io. O donna di virtù, sola per cui l'umana specie cede ogni contento, da quel ciel ch'ha minori i cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'ubbidir, se già fosse, m'è tardi. Più non sè uopo aprirmi il tuo talento, ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giuso in questo centro, dall'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che tu vuoi saper cotanto addentro, dirotti brevemente, mi rispose, perché io non temo di venir qua entro. Temersi dee di sole quelle cose c'hanno potenza di far altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Io son fatta da Dio, sua mercè, tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non m'assale. Donna, è gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento v'io ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: Or ha bisogno il tuo fedele di te, ed io a te lo raccomando. Lucia, nimica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dov'io era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, cuscio per te della volgare schiera? Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana, ove il mar non avanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro ed a fuggir lor danno, com'io, dopo cotai parole fatte. Venni qua giù dal mio beato scanno, fidandomi nel tuo parlare onesto, con ora te e quei che udito l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto. E venni a te così com'ella volse. Dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque, che è? Perché? Perché ristai? Perché tanta viltà nel cor allette? Perché ardire franchezza non hai, poscia che t'hai tre donne benedette, curan di te nella corte del cielo, e il mio parlar tanto ben ti impromette? Quali fioretti, dal notturno gelo chinati e chiusi, poiché il sol in bianca si drizzan, tutti aperti in loro stelo? Tal mi fec'io di mia virtute stanca, e tanto buon ardir al cor mi corse, ch'io cominciai come persona franca. O pietosa colei che mi soccorse, e tu, cortese, ubbidissi tosto alle vere parole che ti porse. Tu mai, con desiderio il cor disposto, sì, al venir con le parole tue, ch'io son tornato nel primo proposto. Or va, con sol volere ed amendue, tu duca, tu signore e tu maestro. Così gli dissi, e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro. Fine del canto secondo.